attacchi, brutto paracu... Chiudi! Finocchio! C'ha ragione, chiudi. Vai a galera, tu e quel finocchio. Ma tu chiudi! Fede l'asta, paraculo! Chiudi, finocchio! Adesso ti buco le gomme della macchina. A me mi metti tre palme e faccia il culo. E il naso dove capita? Sotto! Finocchio, tu di calare. Faccio morire tuo padre, ma che non faccio morire a te e io a rimare. Sì. Chiudimi, finocchio. Sì. E guarda che non ti voglio più sentire. Falcone. Rispondi, Falcone. Falcone. Dimmi K1. Va far culo, cosa dimmi K1? Chiudi, finocchio. Chiudi perché non ti faccio parlare con nessuno. Anzi, adesso vengo sotto casa tua. Cazzo tu il soffare, senti perché... Vieni sotto casa mia, che ci sono i carabinieri, brutto porco. Vedi che non c'è più barchina a casa, stronzo. Adesso il Paoletto, Paoletto? Dimmi K1. Cosa dimmi K1? Ho capito se sono sempre io. Non ti faccio parlare con nessuno. Bene, basta, va a far culo e chiudi! Chiudi il canale, finocchio! Chiuditi quella bagassa di mamma tua, capito? Quella grande bagassa di mamma tua, capito, stronzo? Perché stanotte appena attacchi te se ti piombo di telefonate, brutto porco! Porco! Casino, cioè tu e quella grande bagassa mamma tua, capito? Quella grande bagassa di mamma tua! Quella grande bagassa di mamma tua! Perché stanotte ti piombo di telefonate, a me non me la frega niente se c'è tuo fratello, tuo cognato, come... Stanotte ti piombo di telefonate, me rotti i coglioni! Me rotti i coglioni! Crepato, come finocchio! Su questo pederasta? Parlatelo le altre! Finocchio! Ho detto finocchio, non parlatelo con finocchio! Ma cosa dà,